Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanida in redazione, Matteo Comes in regia. Il primo ospite di oggi, non lo potete vedere neanche io perché è collegato al telefono, però lo conosco di persona, ha un aspetto umano ma è un punto esclamativo, pervaso di energia venuto dallo spazio. Copyright di Andrea Fusco, chissà quante volte l'ha sentito Igor Cassina. Buongiorno. Ciao Igor, poi parliamo anche dell'Inter, eh? Preparati. Okay, va benissimo. Ciao. Però prima parliamo del fatto che alle Olimpiadi ci andrai con una maglietta diversa da quella azzurra, con quella della Rai, con cui commenterai le Olimpiadi. Ieri ho sentito Rosolino, è un modo diverso per partecipare, ma l'emozione è la stessa. Non gli credo fino in fondo, a dire la verità. Beh, allora mi posso associare indubbiamente con il pensiero di Rosolino, che tra l'altro conosco e saluto. Indubbiamente una bellissima emozione, una nuova esperienza, però è normale che magari un pochino il mio cuoricino avrà un po' di malumore, un po' malinconico, perché sai, ho solcato le pedane insieme ai miei compagni e ai più grandi interpreti di questo sport, la ginnastica artistica, fino a un anno fa, e quindi sai, essere lì a commentare è bellissimo, ovviamente, perché è sempre un modo per rimanere nel tuo ambiente, però insomma un po' di nostalgia c'è. Senti, ma avrà ricevuto anche offerte da parte di Sky o no? Diciamo che per una sorta di felicità reciproca con la Rai e con Fusco, con la quale ha commentato tutte le mie più belle performance, e tu le hai citate anche prima. Sì, 2004 Atene. Sì, mi ha sempre seguito, diciamo, dal 2001, proprio dall'anno in cui ho ideato e ho promosso il Movimento Cassina, quindi non ho pensato minimamente a tradire la Rai, diciamo. Sì. 800240024 è il vostro contatto, messaggi 349-238-6666. Ieri, tra l'altro, è venuta così, un ascoltatore ha proposto un sondaggio: quale sport vi piacerebbe vedere alle Olimpiadi tra quelli che non ci sono? Naturalmente un sacco di telefonate e di messaggi, tra il serio e il faceto. C'è qualcosa che ti piacerebbe vedere alle Olimpiadi che adesso non c'è? Ma guarda, io sono molto amico di Ivan Origone e fratello Simone, che hanno il record del mondo del chilometro lanciato, però ovviamente qui si parla di Olimpiadi invernali, quindi diciamo, se mi fai una domanda così, mi viene in mente l'Olimpiade invernale e di riproporre il chilometro lanciato, perché loro sono, soprattutto Ivan è forse uno dei miei migliori amici, è un bravissimo ragazzo, e mi auguro per loro che a breve possano ripresentarlo. Vanno al 250 all'ora sugli sci, quindi sai, secondo me meritano. Sono atleti, non c'è dubbio sul fatto che siano dei grandi atleti. La ginnastica ha fatto boom, questo è un argomento che insomma è molto interessante, ha fatto un boom pazzesco con questo, con questo reality proposto da MTV, Ginnaste Vite Parallele, in cui ci sono le giovani, alcune delle giovani olimpioniche italiane, che hanno fatto, lasciamelo dire, più proseliti tra i giovanissimi, soprattutto delle medaglie tue di Checchi, perché ha fatto un successo incredibile questo programma. La tua posizione su questo qual è? Io sono felicissimo per questa situazione, perché lo sappiamo tutti che oggigiorno la televisione, la radio stessa, i quotidiani sono il miglior mezzo di comunicazione, quindi riuscire a presentare un programma interessante, educativo, istruttivo, costruttivo, secondo gli ideali della vita comune, rispetto, stile di vita, rispettare le regole, credo che questo sia fondamentale. La ginnastica artistica, ovviamente grazie a questo programma di NTV Vite Parallele, ha dato la possibilità e sta dando la possibilità di far conoscere maggiormente la bellezza di questo sport. Sono ben contento per le ragazze che possano avere il giusto riconoscimento, perché nella ginnastica artistica si inizia da piccolissimi, 4, 5, 6 anni, e tutti i giorni in palestra per 4, 5 e anche più ore. Certo. Quindi capisci che credo che sia bellissimo per loro che possano anche andare in giro, e che magari qualche ragazzo, qualche ragazzina e familiari, non solo di chi pratica ginnastica, possa magari scambiare due chiacchiere e chiedere un autografo, perché sono bellissimi riconoscimenti. Sicuro, poi c'è anche l'allenatore russo che ti dice: non esiste parola non posso, o torni o riesci o torni a casa da mamma, o fai ginnasta o torni a casa da mamma, parola non riesco non esiste. Sì, allora Allora, diciamo che queste parole devono essere prese con il giusto peso, perché in determinate situazioni è giusto esprimersi in questi modi se ti rendi conto che il ragazzino o ragazzina che hai di fronte può fare di più e può ottenere veramente qualcosa di buono. Quindi, diciamo, bisogna poi valutare e ponderare anche con chi hai di fronte determinate parole, però a volte credo che sia giusto, ma come sorta di sprono per far capire a chi hai di fronte che se continua così e se si applica di più perché ha le potenzialità, che è un talento che può fare qualcosa di buono, ce la può fare. Guarda, un altro argomento che mi sta a cuore, io lancio un appello pubblico, anche se non so se si può fare, magari poi qualcuno mi rimprovererà, però voglio, da chi va a Londra, voglio quella maglietta che raffigura il meraviglioso murales di Bristol con un ragazzo incappucciato che ruba il cerchio rosso e scappa. L'hanno riportato sulle magliette ed è secondo me un po' l'emblema di queste Olimpiadi vietate e chiuse. Non si potranno usare Twitter e Facebook all'interno del villaggio olimpico, ci sono gli sbirri che controllano le salumerie e i panifici per vedere che non ci sia niente che abbia a che fare con i protettissimi cinque cerchi. Tutto questo mi dà un po' fastidio. Diciamo che sai, ad ogni edizione olimpica salta sempre fuori, diciamo, qualche aspetto, qualcosa di un po' particolare che a volte va oltre quello che è la dinamica dello sport e del principio di competere per dare del nostro meglio e cercare di raggiungere i nostri sogni. Quindi a volte alcuni aspetti possono avere, diciamo, i loro favori, tante volte insomma ci sono situazioni un po' come questa, un po' contraddittorie per alcuni aspetti. Contraddittorio anche il mercato dell'Inter, caro Igor. Guarda, questo è un tasto un pochino particolare. Io posso solamente dire che... poche idee ma confuse. Palacio con un anno di ritardo, Andanovic al posto di Giulio Cesar, Silvestre per Lucio, e poi? E poi ci vorrebbe che ritorna il nostro mitico Eto'o. Speriamo che Moratti possa continuare sulla linea giusta, perché da quando è andato via Super Mourinho abbiamo avuto un po' di problemi. È anche vero che dopo quell'anno stratosferico dove abbiamo fatto e vinto di tutto di più, è normale che ci poteva essere un calo, però sai, è un conto un calo, un conto magari non riuscire a fare le scelte che potrebbero un conto un calo, un conto cadere in un burrone. Però secondo me nel derby siete favoriti, eh? Peggio il Milan di voi. Ma perché? Perché adesso va via Ibrahimovic o... Perché va via Ibrahimovic, perché va via Thiago Silva, perché ne sono andati via 46, perché adesso vediamo chi riescono a comprare. E perché sull'altra sponda, sai, c'è Carlo Ancelotti, c'è una bella intervista su Repubblica, non so se l'hai letta, di Ancelotti che dice: abbiamo preso tutti i più bravi, adesso il mio Paris Saint-Germain vale il Reale e il Barcellona. Sai, quando, non che Moratti non sia un petroliere, perché lo siamo benissimo, però quando si mettono di mezzo loro è molto facile riuscire ad avere chiunque, no? La legge del mercato purtroppo è della nostra società. Oggigiorno è vincolata in base a quello, quindi sì. A volte ha i suoi lati positivi, come tutto, a volte un po' meno. Bocca al lupo, Igor, grazie. Crepi e in bocca al lupo per tutti gli atleti che andranno a Londra. Ma certamente. Chi vince la medaglia nella ginnastica? Che medaglia avremo? Nella ginnastica artistica, credo che sul concorso individuale le maggiori chance sono per Uchimura, che è un ginnasta giapponese che ha già vinto 3 titoli mondiali. Però per quanto riguarda gli italiani, abbiamo Morandi che andrà sicuramente in finale e si gioca una medaglia importante. Angioletti, anche lui nella tratta degli anelli. Busnari, che anche lui al cavallo con maniglie da diversi anni, sempre lì tra i migliori e ha concrete possibilità di finale e di medaglia, e posto sul concorso individuale. Ottavi, anche lui, possibilità per l'anello. Quindi io mi auguro che i miei compagni e le ragazze della femminile e della ritmica possano riuscire a ottenere quello che si meritano, cioè la medaglia. Grande Igor, grazie, buon lavoro. Grazie, ciao. A presto. Ciao, presto. Ciao. Siamo in spogliatoio. È sempre incasinato, di solito quando passo io lo metto in ordine quando posso, ma se no le altre sciagurate non mi aiutano mai. È perché proprio ci passiamo tantissimo tempo e quindi è sempre un po' in disordine. Carlotta vive a Milano da 5 anni, ma il posto che meglio conosce di tutta la città è questo spogliatoio. Carlotta non è una ragazza come tutte le altre. Lei è una campionessa. Già da piccola aveva le idee ben chiare circa il suo futuro. intorno ai 11 anni così, i miei genitori mi chiedevano sempre: ma tu cosa vorresti fare da grande, tu cosa vorresti fare? E io, ma sinceramente mi piacerebbe tanto fare le Olimpiadi. E ad una ragazzina così determinata... Carlotta Ferlito era questa che sentivate parlare, e questo era un estratto appunto del reality di cui parlavamo prima con Igor Cassina, reality su MTV, che ha fatto, ripeto, un boom clamoroso, al di là del programma, per l'intero movimento della ginnastica, più delle medaglie di Cassina e di Yuri Chiechi, come ho detto prima. A Igor Cassina. Vi citavo prima l'intervista di Ancelotti, passando oltre l'intervista di Ancelotti oggi su Repubblica, firma di Alessandro Vocalelli. Ancelotti carico come una sveglia, eh. Mio Paris Saint Germain vale Reale Barça, adesso vedremo, dice Ancelotti, pastore alla Seedorf, e sarà uno spettacolo. Verratti è l'erede di Pirlo, ci andrai piano caro Carletto. Verratti è un buon giocatore, ma può essere riproposto naturalmente lo stesso ruolo di Pirlo, però fino adesso l'abbiamo visto in uno straordinario campionato di Serie B, peraltro vinto. Insomma, poi parla di Lavezzi e Menez, veloci, tagliano le difese, faranno un tandem pazzesco. Ibra non l'ho mai allenato, dicono che sia un rompiscatole, ma nel senso che piace a me, perché vuole sempre vincere. E poi io grandi problemi con i giocatori non ne ho mai avuti, piccoli problemi con Seedorf, Inzaghi e Ambrosini, ma è normale. Questo Carletto Ancelotti. Voglio invece farvi sentire una voce di oggi, che è di Garrone, presidente della Sampdoria, perché si erano sparse voci su un possibile ritorno immediato di Cassano, che comincia ad avere mal di pancia rossoneri alla Ibrahimovic, alla Sampdoria, ma Garrone frena. Momenti stupendi, ma ripeto, voglio dire, nella vita le strade si dividono, e oggi un giocatore del Milan, basta. Ma se ci fosse la possibilità? Ma è bene che stia un po' il Milan, no? Quindi non parliamone più. E anche i bookmakers dicono che Cassano non andrà alla Sampdoria, un suo ritorno in blu cerchiato è offerto a 2,20, così dicono i bookies. Se poi Garrone magari lo prende e scommette, riesce a pagarci una parte dell'ingaggio di Cassano. No, queste cose lasciamole stare, per favore, per carità. 800 24 00 24 è il numero verde. C'è qualcuno che continua a bacchettarmi sul fatto che considero il Milan, insomma, non una squadra più competitiva per lo scudetto, certamente non per la Champions League. Qualcosa io credo in rosso-nero faranno, ma sono andati via molti giocatori, e soprattutto al Milan adesso manca quella trave portante, ma per ragioni anagrafiche, dicevo ieri, quella trave portante di giocatori che, sulla quale poi venivano innestati i campioni di turno, e che guidava la barca. Adesso si tratta di reinventare il Milan, ci vorrebbero molti quattrini, Berlusconi non mi pare che abbia l'intenzione di spenderli. A proposito sempre di quattrini, c'è Marotta che ieri ha tracciato il profilo del top player che la Juventus vorrebbe. Jovetic, posso dire che rappresenta il profilo di riferimento del nostro mercato, però se ne provo contrario, Jovetic è un calciatore della Fiorentina. La Fiorentina, da quelle che sono state le dichiarazioni fatte sino ad oggi, pare voglia tenerselo ben stretto, e quindi mi sembra corretto non entrare di più nei dettagli, perché è un giocatore della Fiorentina, e quindi finché loro non decideranno di metterlo sul mercato, ogni situazione può risultare vana. Beh, la Fiorentina non vuole cederlo, non lo mette sul mercato, ce lo teniamo, però Pradè ha attaccato oggi sul piede di Jovetic il cartellino del prezzo. C'è un gentleman agreement che ci dobbiamo sedere a un tavolo con una cifra intorno ai 30 milioni. Questo è quello che ci ha detto la nostra proprietà, e quello che porteremo avanti, e senza contropartite tecniche. Dunque 30 milioni e la Juventus può prendersi Jovetic. 30 milioni certamente non sono uno scherzo. Caro Andrea, non mi è antipatico Lotito, anzi mi è anche abbastanza simpatico così a pelle, però non mi è antipatico, non parlate mai di Lazio, lo faremo anche quello, parleremo naturalmente anche della Lazio. È un periodo dell'anno in cui vale tutto e il contrario di tutto. Intanto la Lazio ha perso, secondo me, un uomo fondamentale, ma l'aveva perso già nel corso della stagione, come Eddie Reia. Vedremo cosa saprà fare questo nuovo allenatore. È certamente una squadra che può ricalcare la falsa riga del campionato scorso, anche perché insomma la concorrenza si è indebolita, anziché no. Ma se vuole parlare di Lazio, chiami, 800 24 00 24, microfono è aperto anche per lei, come per Antonio da Milano e Fabrizio da Ancona. Antonio, dica, buongiorno. Sì, buongiorno. È una domanda da tifoso interista abbastanza, come posso dire, soft. Ma ritorna Eto'o, benissimo, ma a quanto l'ha venduto e a quanto ritorna? Ma no, ma chi ha detto che torna Eto'o? Eto'o è una domanda. No, ma non ritorna. Cioè, quindi è inutile stare a parlare di cifre. Era Igor Cassina che diceva prima, magari tornasse Eto'o, ma la qualcosa non accadrà, insomma. Quindi mettetevi il cuore in pace. Ma poi è anche giusto, secondo me, a questo punto provare ad avere idee nuove e diverse. Io mi sto ancora domandando perché l'Inter abbia già giubilato Pazzini, che comunque è un giocatore ancora molto giovane. Mi domando quali siano le linee guida del mercato dell'Inter e quale Inter sarà l'anno prossimo. È questo che non riesco a capire, me lo domando già da un po'. Fabrizio Ancona, salve. Sì, buongiorno signor Genta. Buongiorno. Una considerazione e una domandina. La considerazione è sugli europei appena trascorsi, sul calcio inglese. Io penso che se l'Inghilterra non avesse gli stranieri che ha, sarebbe la Premier League sarebbe un campionato abbastanza mediocre, vedendo quello che può proporre a livello di nazionale. E questa è la considerazione un po' provocatoria. Sì, però Fabrizio, tenga conto di una cosa: tutti quelli che hanno gestito l'Inghilterra, che hanno allenato l'Inghilterra, cappello compreso, ma a partire da Ericsson, hanno sempre fatto una considerazione tanto giusta quanto sottovalutata. Cioè i giocatori inglesi soprattutto arrivano a questa parte della stagione esausti, perché sono quelli che giocano ad un ritmo, ad un'intensità di impegni, perché in Inghilterra, come lei sa, la Coppa Nazionale si gioca sul serio, perché in Inghilterra c'è una partita vera ogni 3 giorni, a Natale si gioca, a Santo Stefano si gioca, non ci si ferma mai. Il prezzo da pagare è quello di giocatori davvero più spremuti di altri alla fine dell'anno. Dica. Sì, secondo me comunque tecnicamente ci sono dei giocatori che a livello di nazionale sono impresentabili, però è una considerazione proprio personale, ecco. Non metto in dubbio il fatto che si spremano molto di più degli altri. La considerazione, la domanda è questa: il fair play finanziario, non so se lei ne sa come Bellina. Andata giù la linea. Allora, anticipo che di fair play finanziario pagheremo, perché la considerazione che molti ascoltatori fanno con ogni mezzo, Twitter, Facebook, eccetera, eccetera, è estremamente corretta. Ma è possibile che questo fair play finanziario valga per tutti, ma per gli sceicchi no? Arrivano quelli del City e comprano chi vogliono, arrivano questi del Paris Saint-Germain e comprano qualunque cosa, e ovviamente al di fuori delle regole del fair play finanziario. Mi sembra una considerazione che merita un approfondimento che nei prossimi giorni faremo. Delfio Catania, provincia di Catania. Salve. Salve. Salve, sono Delfio. Quindi volevo una considerazione da lei. Questa Juve, quest'anno, come potrà arrivare, come l'anno scorso, che si portano scudetto riguardo queste squadre che non vedono un grande come il Milan, l'Inter, la Roma, guardi, chi glielo leva? Chi glielo leva lo scudetto? Secondo me, ma stiamo facendo discorsi da ombrellone, però visto il mercato e visto il vecchio adagio secondo cui chi porta lo scudetto sulle maglie parte per forza favorito, insomma la Juventus si è rinforzata, la concorrenza si è indebolita, fate voi, mi sembra la grande favorita per il prossimo campionato. Ovviamente lo diciamo il 18 di luglio e all'ordo di tutto quello che può accadere sul mercato. È la grande favorita e anzi è indiziata per poter aprire un ciclo almeno in Italia. Walter da Trento. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Niente, io volevo solo chiedere una cosa: ma come mai i dirigenti, io sono milanista e quindi hanno sempre bisogno di raccontare delle balle? Cioè questo tipo Gagliani, adesso si viene fuori, arriverà un campione, e quindi dopo, ma perché promettere? Basta che dicano anche la realtà, non ci sono più soldi, chi se ne frega, buonanotte, non è che moriamo, è calcio, non è che mi interessa più lo spread, forse il calcio magari, però voglio dire, ma perché hanno sempre la necessità di fare queste sceneggiate? Perché ci sono, perché ci sono quelli che ci credono? Tutto lì, ma no, ma mi sembra ragione, non ci sono i soldi, basta dirlo ma, tranquillamente. Ma io sono d'accordo con lei, l'ho ripetuto, l'ho detto molte volte, no? Cioè, credo che i tifosi del Milan e dell'Inter sarebbero disposti, anzi sono disposti ad avere tutta la pazienza del mondo di fronte ad un discorso onesto che dica c'è una squadra da ricostruire, senatori molto costosi hanno terminato la loro carriera, hanno dato molti titoli, molti successi, sono andati via, non ci sono i soldi per trattenere le superstar che abbiamo, e allora queste sono le linee guida di una squadra che sarà competitiva tra 2, 3, 4 anni. Per 2, 3, 4 anni vedremo il bambino crescere e poi magari si tornerà a parlare di scudetti e di Champions, magari una squadra molto giovane, una squadra improntata sul vivaio, sto dicendo delle banalità, ruota libera, però basterebbe presentare un progetto credibile, anche non vincente in termini immediati, e io sono convinto che il 90% dei tifosi non avrebbe nulla da eccepire. 800 24 00 24, numero verde, o molti altri argomenti da sottoporvi. Mi raccomando, se andate a Londra portatemi quella maglietta, quella del Murales di Bristol con il ragazzo incappucciato che ruba il cerchio rosso e scappa in barba ai mille divieti che stanno intorno a questa Olimpiade. Tanto continuano a circolare voci sul possibile avvicinamento del Milan a Dzeko, ma siamo appunto soltanto alle voci. Zamparini che dice: Balzaretti vuole Palermo o, indovinate un po', Paris Saint-Germain, ci mancherebbe altro. Allora, prima di parlare un po' della lotta, ma che ha assunto anche termini e vocaboli piuttosto pesanti tra Rai e Sky sulle prossime Olimpiadi, c'è cioè la rubrica che diventerà un classico da qui ai giorni olimpici, cioè tutto quello che avete sempre voluto sapere ma non avete mai osato chiedere sulle Olimpiadi, ve lo raccontiamo noi con varie ed eventuali. Dichiaro aperti i primi giochi aziendali. E ricordatevi, qui l'importante non è partecipare, è vincere. Alla squadra prima classificata non saranno concessi né premi, né inni, né onori, né coppe. Sapete perché Nietzsche, Charlie Chaplin e Stalin non avrebbero mai potuto competere alle Olimpiadi nella lotta? Semplice, perché avevano i baffi. Qui il regolamento parla chiaro. Sul tappeto solo lottatori rasati o con una barba di diversi mesi, mentre alle donne sono vietati i reggiseni con filo metallico e tutti devono avere unghie cortissime. Non provate quindi a graffiare l'avversario mentre cercate la schienata, ovvero il blocco a terra delle spalle del competitor, mossa che fa vincere immediatamente l'incontro. Nella lotta ci sono 7 categorie di peso, dai magrolini di 50 kg fino ai bestioni di 120, e 3 modi di vincere un incontro: per superiorità tecnica, aggiudicandosi più punti, e per decisione dei giudici. E per ottenere i punti c'è una sfilza di mosse da far invidia a Dragon Ball: atterramento, rovesciamento, esposizione e varie penalità. Guai infatti a fuggire dal tappeto o entrare in contatto con colpi illegali. Ma noi sappiamo che non vedete l'ora di capire perché diavolo a un certo punto della contesa nella lotta greco-romana i combattenti iniziano in piedi e dopo un minuto si mettono a carponi sul tappeto. È la sessione parterre, quando uno dei due gladiatori deve incollarsi a terra per 30 secondi, sgusciando come un coccodrillo, mentre l'altro prova a ribaltarlo con la cosiddetta presa alla cintura rovesciata. I partecipanti della squadra ultima classificata saranno tutti trasferiti nella nostra miniera di Sasso Stretto, frazione di Carbonia, e qui impiegati come muli da soma. Avete preso nota sulle particolarità della lotta? Ieri il dressage, domani chissà, in questo Olimpiadi varie ed eventuali, per arrivare preparati alle 2000 ore di diretta di Sky, super mega diretta in sala mensa. Sky e i suoi tanti soldi per le Olimpiadi, Sky e la sua squadra sterminata di commentatori, di cui appunto è entrata a far parte ieri anche Massimiliano Rosolino, appunto Sky e le sue 2000 ore di diretta. Ma siamo sicuri che tra il 27 luglio e il 12 agosto, nell'estate del governo Monti, del PIL sottoterra, del profondo rosso, delle ferie ridotte all'osso, la gente si piazzerà in massa in quei pochi giorni, magari che potrà permettersi al mare davanti alla TV per 2000 ore di diretta televisiva? Vorrei parlarne con Davide Maggio, critico televisivo. Ciao Davide. Ciao Carlo, come stai? Bene, tu? Bene, accaldato, ma va tutto bene. È estate, mangeremo un ghiacciolo. Senti, esatto. Ma questa operazione mastodontica di Sky, allora le Olimpiadi sono qualcosa di meraviglioso, al di là di tutti i divieti che le circondano e che me le fanno, che mi stanno un po' sulle scatole, però sono qualcosa di meraviglioso, sono qualcosa di spettacolare anche, però cadono in un periodo in cui la gente fa di meglio o qualcosa di diverso rispetto all'incollarsi tutto il giorno e tutta notte davanti alla TV. Questo sicuramente, però io credo che il tipo di programmazione che le Olimpiadi portano con sé, insomma, penso che sia invece adatto all'estate, nel senso che sai, non è come un film che devi seguire con dall'inizio alla fine, altrimenti poi perdi il filo, secondo me. Sì. Credo che le Olimpiadi possano essere seguite anche con abbastanza agilità da parte del telespettatore e secondo me si prestano anche ad essere trasmesse durante l'estate. Poi ci sono talmente tante alternative e talmente tanti spazi che credo che si riesca a fruirne in maniera interessante. Poi è chiaro che se un telespettatore vuol seguirle dall'inizio alla fine, peggio per lui naturalmente. No, ma per quello dico, cioè su Sky si potrà vedere tutto dal primo lancio della prima batteria del tiro con l'arco al primo lancio del peso di un bulgaro o di un bielorusso fino alla medaglia d'oro dei 100 metri. Ora mi domando se questa sovraesposizione, questa meravigliosa macchina da guerra di Sky possa portare così tanti ascolti, tanti abbonati, o possano bastare con quelle 10 ore giornaliere di diretta televisiva che proporrà la Rai. Io devo dirti la verità, questa operazione di Sky per alcuni aspetti, come dire, la condivido, anzi posso esserne anche contento, perché più materiale abbiamo a disposizione meglio è. Però allo stesso tempo, per quello che dicevi prima, io penso anche che 10 ore possano bastare, le 10 ore di diretta televisiva della Rai. Poi c'è una cosa che non condivido molto in realtà, cioè ultimamente Sky crede di fare sempre meglio degli altri e meglio di tutti. Sì. E francamente sai, ci sono state anche un po' di querelle negli ultimi tempi tra telecronisti. Esatto, su questo volevo arrivare, perché lo trovo interessante e anche un po' fuori dalle righe questa polemica di Franco Bragagna su Caressa commentatore di nuoto. Allora premetto, secondo me Sky dal suo punto di vista fa benissimo a rendere pop le Olimpiadi, no? Quindi a renderle rutilanti, a dare questo tocco appunto di populismo, piazzando Caressa a commentare Federica Pellegrini. È entrato a gamba tesissima Franco Bragagna, che già aveva avuto ma ti devo dire la aspetta, verità. Sentiamo questo, telecronaca di Bragagna del bravissimo, del Golden Gala di Roma, già prima entrata in scivolata. Dico una cosa, siamo su Rai 3, questa trasmissione verrà replicata domani su Rai Sport 2 integralmente, quindi sia quello visto prima su Rai Sport 1 che adesso su Rai 3. Rai 2 trasmetterà i giochi olimpici, perché siccome è stato fatto, io la chiamo la televisione della finta pelle, perché io non conosco bene l'inglese, quindi per me questo il termine Sky è finta pelle, è giusto battage pubblicitario finché si vuole, nel nostro piccolo ci saremo anche noi, o nel nostro grande, anzi attenzione ragazzi, perché i telecronisti dell'atletica sono molto bravi, molto meno quelli del nuoto, parere personale, i commentatori tecnici, quindi voi siete salvi, secondo me sono meno bravi dei telecronisti, però bisogna essere bravi di noi, le sfide ci piacciono, vero Tilly? Quindi cercheremo abbiamo di essere abbiamo già raccolto e siamo pronti. Guascone anche qua. Quindi non trasmetteranno solo altri, la Rai fa un po' di fatica a mettersi in moto con i suoi spot eccetera, ha già cominciato, ma attenzione, ci saremo anche noi, vero Balani dalla regia? Di tutto di più. Questo Bragagna che sembra davvero punto sul vivo. Ragazzi, fatti bravi, 2000 ore saranno 1600, 1800 ore di diretta. C'è chi mi fa i conti, 2000 ore diviso 24 fa 83 giorni, durano così tanto le ripiene di Riccardo da Milano. Fatti bravi, sapete benissimo che Sky ha molti canali e molti canali saranno dedicati alle diverse discipline, quindi uno potrà scanalare da una parte all'altra guardando appunto pallacanestro, nuoto, tiro con l'arco, tiro a piattello eccetera eccetera eccetera, e questo monte ore di diretta televisiva arriverà a 2000 o giù di lì. Quindi i conti sono questi. Torniamo a Bragagna, Davide Maggio. Allora, Bragagna che dice: quello che discuto è il caressismo. Non puoi chiamare Fabio Caressa a commentare le gare di nuoto solo perché è famoso. È un insulto all'olimpismo. Per raccontare le competizioni olimpiche c'è bisogno di gente che conosca la materia, non è giornalismo. E raccontare una partita in maniera folcloristica, usare la stessa enfasi per il gol che fa vincere l'Italia ai mondiali, per il 7-1 dell'Inter contro l'ultima della Serie A. Quando guardo una partita, a me la voce di un piazzista non interessa. Però Vuoi il mio commento? È certo che lo voglio. Io credo che Fabio sia un po' il capro espiatorio per chi vuole prendersela un po' con Sky, forse proprio per quello che dicevi anche tu prima, cioè è un po' il volto, diciamo l'espressione di Sky, dello sport su Sky. Vero è che l'intervento è stato, secondo me, legittimo per alcuni aspetti, eccessivo anche per altri, però probabilmente si è colta l'occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, visto quello che è successo con gli europei, perché hanno passato praticamente tutto il tempo ad accusarsi da una parte all'altra, da una sponda all'altra, e posso anche capire un po' il risentimento della Rai, anche se c'è da dire che Sky fa poi un lavoro interessante, quindi c'è poco da dire, insomma. Sì. È divertente anche guardarlo dal di fuori. Personalmente poi ognuno fa la scelta o le scelte che preferisce, e noi guardiamo dall'esterno, vediamo come va a finire. Ma certo. Senti, un'ultima cosa: Sky e Mediaset hanno comprato un campionato, se ne ritrovano un altro svuotato di tutte le superstar, da Lavezzi a Ibrahimovic. Le televisioni non fanno mercato, i quattrini le incassano la società, ma non è che un giorno o l'altro andranno a bussare alla porta del Milan. Scusate, a noi quanto viene di quei soldi per Ibrahimovic e Thiago Silva? Allora, a me ha fatto molto piacere vedere invece che per la prima volta si siano messi un po' d'accordo, nel senso che quantomeno l'appassionato può finalmente avere o usufruire, no, di tutto il calcio che desidera, tanto da una parte quanto dall'altra, quindi parliamo sia di Mediaset Premium che poi di Sky. Vero è che questa non è una chicca, non so se avete avuto modo di vederla, che proprio ieri è stata pubblicata sul sito di Mediaset una pubblicità un po' anomala per Mediaset Premium, dove praticamente volevano fare un po' i simpatici nei confronti di Sky, soprattutto per quanto riguarda le condizioni contrattuali delle carte Mediaset Premium. Cioè, com'era? Non l'ho vista. Ma loro dicevano praticamente che con Mediaset Premium finalmente si ha la possibilità di non dover mandare alcuna disdetta, di non avere non avere troppi vincoli contrattuali. In sostanza dicevano, il concetto era questo, per come l'ho letto io, sì, siamo meglio noi di Sky, insomma. Sì. Visto che ormai, no, con l'accordo che hanno fatto, bene o male tendevano ad equiparare un po' le due offerte, per quanto cioè, sì, sono propriamente paragonabili, adesso hanno voluto ribadire magari una supremazia. Che... Come sapete, ci siamo messi d'accordo con Leonardo per non sovrapporci alla presentazione di Ibrahimovic, che avverrà oggi alle 15, presentazione ufficiale di Ibra, in cui il fuoriclasse svedese dirà: è la squadra in cui ho sempre desiderato giocare fin da quando ero ragazzino, perché è vero, sono stato in Italia, sono stato in Spagna, ma il mio vero obiettivo finale era Francia, e questa sarà mia ultima maglietta. Enrico, provincia di Vicenza, poi Massimo da Milano. Buongiorno a tutti. Buongiorno, dica. Mi auguro che quello che sta per dire non suoni come uno spottone per Sky, però facevo un ragionamento in qualità di cliente Sky. La grossa differenza tra le 2000 ore riferisco alla della diretta di Sky e l'eventuale diretta che si può avere con la Rai, la fa il servizio che su Sky si chiama Sky On Demand. Sì. Questo permette di registrare e posticipare la visione di programmi, certo. E permette proprio, come si diceva prima, di fruire delle Olimpiadi quando si ha tempo, torno dalla spiaggia e mi guardo la gara che c'è stata finché stavo prendendo il sole. Sì, per chi ha questo tipo di servizio. Non è assolutamente possibile, se non con videoregistratori, cose strane, eccetera. Sì, è anche vero che su 10 ore di diretta, vari notiziari che la Rai farà, eccetera, io penso che chi vuole vedersi un evento abbia la possibilità di farlo senza troppi problemi. Ho anche diversi messaggi su questo argomento. Ad esempio, molti insistono sul fatto: sono abbonato a Sky, ma l'Atletica la guardo sulla Rai perché Bragagna è il migliore, più preparato. Però non sono d'accordo con le sue parole, Matteo da Piacenza. Nemmeno io sono d'accordo con le sue parole. È un super maestro, un telecronista storico. Però io continuo a pensare che, ad esempio, Nicola Roggero non abbia nulla da invidiare a Bragagna. Quindi io credo che dal punto di vista dell'Atletica Sky sia assolutamente ben coperta. Possiamo discutere appunto su Caressa che fa il nuoto. Sono convinto che farà una splendida telecronaca, naturalmente con i suoi colori, con i suoi toni, eccetera eccetera. Ci sono pro e contro, c'è a chi piace e a chi no, però io condivido questa scelta pop di Sky di mettere la sua voce di punta, la sua voce più nota a commentare le gare che alla fine gli italiani aspettano in maniera più attenta, cioè quelle del nuoto con la Pellegrini, con tutti i nostri, insomma. Massimo Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Niente, io chiamavo per una piccola considerazione. Sentivo che molti milanisti si lamentano che da parte di Galliani o dei dirigenti manca un po' di chiarezza. Però bisogna anche calcolare che squadre blasonate come Milan, Inter, Juve hanno anche dietro dei ricchi contratti di sponsorizzazione. Quindi non possono magari esporsi così alla mercé di tutti, perché ovviamente poi questi contratti potrebbero decadere. Di conseguenza non possono dire chiaramente: non ci sono soldi, non compriamo nessuno. Paventano magari il campione per il futuro. Credo sia solo questo. Però sì, ci sono contratti di sponsorizzazione, poi ci sono ovviamente sullo sfondo anche le questioni televisive a cui facevo prima riferimento, perché la crisi che stiamo vivendo è reale, però è anche vero che il prodotto calcio in Italia, insomma, complice la crisi, è svalutato, e i denari che le TV per contratto pagheranno sono gli stessi. Quindi no, ma io penso che poi alla fine qualcuno al Milan arriverà. Penso che venderanno comunque la facciata di una squadra competitiva. Non ho idea su quali possano essere onestamente gli scenari. Io vedo, torno a ripetere, la Juventus con un mercato eccellente davanti a tutti. Stiamo ad aspettare il prossimo colpo, che sia Jovetic o che sia Van Persie. Secondo me Jovetic molto più funzionale ai discorsi bianconeri, io prenderei lui. Detto che il giocatore ideale, abbiamo detto molte volte, il giocatore ideale in quel contesto sarebbe Cavani. Ebbene, una Juventus nettamente favorita su due milanesi che devono per forza di cose reinventarsi e che non sembrano, che sembrano intenzionate, mettiamola così, a rispettare perfettamente i parametri del fair play finanziario. Salto al Tour de France, ben volentieri. Pier Augusto Stagi, buongiorno. Ciao Carlo, buona giornata a tutti. Tour de France che ieri ha perso un altro dopato, Frank Schleck. Sì. Nome molto noto, ieri beccato. Colpito e affondato, purtroppo. Ovviamente ha detto che non c'entra nulla, che queste cose non le ha mai fatte, nemmeno nei sogni. Certo, ovviamente anche il fratellino ha confermato che giura su tutta la famiglia, sulla testa di sua mamma, sì, su papà, mamma, tutti, che suo fratello è Candido Candido come la neve, beccato per un diuretico. Le abbiamo già sentite da tutti, io sì, da tutti. Magari, chissà se campiamo abbastanza per sentire il contrario, cioè uno che esce e dice: oh, beccato, fatto, ragazzi, è vero, tutto vero, ho fatto questo e quest'altro, e adesso mi consegno alla giustizia. chissà. Per il momento è fantascienza. Bravo, e lo rimarrà. Parliamo invece dei Pirenei di oggi. Come è messa questa tappa che fa paura a molti, non so se a Wiggins? Ma al momento Wiggins sembra bello, non dico sereno, ma bello al sicuro. C'è in atto una fuga, al momento sono due corridori in avanscoperta, il solito Thomas Voeckler che va alla caccia di una tappa di prestigio, di gloria, di applausi, ma soprattutto della maglia Pua, che premia qui in Francia, questa maglia è amatissima, quasi quanto la maglia gialla, e premia il miglior grimpeur, il miglior scalatore del Tour de France. Quindi sono due corridori sostanzialmente al comando, sono tutti e due francesi, appunto Thomas Voeckler e Brice Feilloux. Il grosso del gruppo è attardato, la maglia gialla sono a qualche minuto, si stanno tutti controllando, però loro hanno ancora tutto il Tourmalet da fare, e soprattutto dopo il Tourmalet ci sono ancora due salite belle toste che si sentiranno nelle gambe, che sono appunto il Col d'Aspin e soprattutto il Périsourde, che è una salita veramente ostica. Oggi fa tanto caldo, molto molto caldo. Leggevo 38 sul Tourmalet. 38, sì. Prova da pazzi, eh? E l'asfalto trasuda. L'asfalto trasuda. Si sembra di essere sotto un phon. Sì. E infatti i corridori sono sbragatissimi, con le loro magliette apertissime, svolazzanti. E infatti il corridore, ad esempio, Michele Scarponi, che era nell'azione di fuga e c'è tutto di schianto. Pochi minuti fa, proprio circa una decina di minuti fa, il interruttore si è girato, la luce si è spenta e si è letteralmente bloccato, perché quando sudi tanto, se non ti alimenti bene, soprattutto se non ti bevi, certo, queste tappe sono pazzesche, non tanto per le salite quanto per le condizioni in cui si svolgono, che sono qualcosa ai limiti dell'umano. Sì, e poi non dobbiamo dimenticarci che siamo ormai siamo quasi alla terza settimana, siamo entrati nella terza settimana e da 18 giorni che pedalano, hanno 2700 km nelle gambe, la stanchezza si fa sentire perché in ogni caso non ci sono state tappe durissime sotto l'aspetto chilometrico anche di altitudine, ma l'hanno fatta comunque a grande velocità, c'è stata battaglia, forte andature e quindi la fatica viene fuori, e soprattutto oggi e domani se ne daranno di santa ragione. Grazie Pieragusto, alla prossima. Grazie a te Carlo. Grazie Pieragusto Stagi. Per rispondere all'ascoltatore Fabio da Milano, ma chi si è dopato dicendo fratellino, ho pensato a Schleck, ha pensato bene? Frank Schleck beccato positivo per un diuretico ed escluso. Antonio da Latina e poi andiamo a casa. Sì, salve. Ascolti, niente, per quanto riguarda il dibattito che c'è in questo momento tra diciamo Sky e Rai per quanto riguarda i diritti, insomma, delle Olimpiadi eccetera. Sì. Io dicevo questo, è almeno un anno che io non vedo più partite né su Sky né su Rai, sì, e non me ne perdo neanche una, me le vedo tutte in streaming. Sì. Quindi me le vedo sul PC e si vedono bene, a parte ovviamente è pieno di pubblicità intorno, certo, basta insomma sapere aggiustare il quadro del PC, si vedono benissimo, non ci sono interruzioni, non ci sono commenti bislacchi, anche perché comunque alla fine è lì. Sì, è tutto un po' borderline, quindi non si paga, è gratis, tra legale e illegale. Non paghi Sky, niente. Però Antonio, io dico una cosa di cui, se volete, parleremo nei prossimi giorni. Secondo me è anche giusto pagare per vedere un grande spettacolo come lo sport in televisione. Io non sono così d'accordo sul fatto che debba essere sempre tutto e per forza gratis. Il grande spettacolo sportivo si può anche pagare, dunque non ci vedo nulla di peccaminoso in tutto questo. Un po' più di peccaminoso lo vedo in queste operazioni un po' borderline con lo streaming, che poi si vede e non si vede. Dunque ci fermiamo qui, grazie a Franco Piantanida in redazione, a Matteo Comes in regia, domani alle 2 presenti all'appuntamento. Ciao a tutti.